Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Iniziamo a dare il buon buongiorno. Buon buongiorno, mi piace. È proprio. Giovanni Vecchi, benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori. Francesco, lei che cosa ci regala oggi? Sì, buongiorno. Ah no, mi dici? Buongiorno. Buon buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Grazie, niente. Francesco. Anche per te. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Mangia sano e vivi meglio. Certo che sì, e oggi vi spiegheremo perché. 800 24 00 24, iniziate subito a prenotare i vostri interventi. I dati ci dicono che oltre il 30% dei tumori potrebbe essere prevenuto adottando uno stile di vita corretto. Cosa significa? Mangiando meglio, mangiando bene senza rinunciare al gusto e muovendoci un po' di più. 800 24 00 24, un numero verde per fare prevenzione, per raccontarci tutti i vostri dubbi e le vostre difficoltà. Abbiamo già qui in studio le nostre due esperte che ci accompagneranno nel corso della trasmissione, la dottoressa Lucilla Titta, ricercatrice e nutrizionista del progetto Smart Food promosso dall'OIEO. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Ed è tornata a trovarci naturalmente la dottoressa Maria Giovanna Luini, senologo, scrittore e comunicatore scientifico. Bentornata. Grazie, buongiorno. Voilà, insomma, le nostre esperte ce le abbiamo pronte, aspettiamo poi naturalmente gli esperti della pagina di Denari. E allora, se nella pagina di Cuore, come ci anticipava Nicoletta, penseremo al nostro domani parlando di prevenzione anche per i denari, dalle 11.45 penseremo al nostro domani anche se da un'altra prospettiva. Chi si adatta di più a questa definizione se non i bambini più piccoli appena nati o quelli che nasceranno tra poco? Sono loro il nostro futuro, il nostro domani, nella vostra famiglia o nella cerca dei vostri amici più stretti. C'è già un bebè che è nato all'inizio di questo 2015 o che nascerà entro la fine di quest'anno? Ce lo raccontate? 800 24 00 24, diteci come si chiama, se è un maschietto o una femminuccia, ma soprattutto diteci quali sono quelle che possono essere definite le maggiori difficoltà economiche che l'arrivo di un bebè ha portato: il nido, i pannolini, la ricerca di una casa più grande con la relativa rata del mutuo. Sappiamo che una nuova nascita porta anche costi nuovi, saprete sicuramente che un sostegno almeno parziale potrebbe arrivare dal bonus bebè, 80 euro al mese stanziati dal governo, riconosciuti ai nuclei familiari che stanno avendo un figlio proprio in questo periodo e lo avranno entro il 2018, in presenza naturalmente di determinati requisiti. Ne parleremo a partire dalle 11.45. No, basta, qua tutti ormai sappiamo che mangiare bene aiuta a vivere meglio. La dieta mediterranea, per il suo apporto di frutta, verdura, cereali integrali, olio extravergine d'oliva e altri antiossidanti, è un modello vincente di alimentazione, ma per quanto questi concetti sembrino chiari, ormai metabolizzati, metterli in pratica sembra un po' difficile. Allora oggi vi chiediamo di intervenire e di raccontarci quali sono le reali difficoltà che incontrate nel comporre e seguire una dieta che vi assicuri tutte quelle sostanze a cui la scienza, e sottolineo la scienza, conferma un ruolo protettivo e preventivo. Non vi piacciono le verdure? Non riuscite a rinunciare alla carne? Il pesce proprio non vi gusta? La frutta non vi va giù? O che altro? Oppure vi manca il tempo, la voglia? Siete forse ostinatamente convinti che il mangiare sano sia una mortificazione per il gusto? Allora confrontiamoci e proviamo anche a risolvere i dubbi più frequenti riguardo alla scelta, alla preparazione e al consumo dei vari alimenti. Ci aiutano ben due esperte, come ho anticipato. la dottoressa Lucilla Titta e la dottoressa Maria Giovanna Luini, che ci aiuteranno proprio a conoscere meglio i cibi, il modo giusto di abbinarli e di cucinarli. E proprio a questo proposito è nato un progetto molto bello, e io vi invito a visitare la pagina e troverete sicuramente delle notizie molto interessanti. È nato all'OIEO il progetto Smart Food, un progetto che ha proprio l'obiettivo di insegnare, o meglio reinsegnare, a mangiare in modo corretto, suggerendo quindi strategie, accorgimenti che hanno proprio come denominatore comune la conferma della scienza. Dottoressa Titta, iniziamo a dire che il cancro è una malattia complessa che non può trovare soluzioni magiche né tantomeno cure miracolose in un alimento, no? Però la scienza ci dice che un'alimentazione sana ed equilibrata e varia, con alcune caratteristiche, ha un'influenza molto importante sulla prevenzione di alcuni tipi di tumore. Sì, è così. Abbiamo finalmente, diciamo, delle certezze poche, sì. che sono basate su tanti anni di ricerca, soprattutto in campo epidemiologico, e quindi siamo arrivati a un punto in cui sappiamo proprio l'influenza di determinati alimenti, del consumo di determinati alimenti, su determinate sedi tumorali. Questo non si può applicare a tutti i tipi di tumore, però alcuni sono particolarmente sensibili al consumo di determinati alimenti, sia per quanto riguarda l'innalzamento del rischio di incidenza di tumore, sia per quanto riguarda l'abbassamento del rischio, quindi la protezione per certi tipi di tumore. Quindi ci sono alimenti più buoni, nel senso protettivi, e alimenti che invece ci giocano un po' contro. Esatto. Vogliamo così iniziare a stuzzicare i nostri ascoltatori elencandone alcuni? Per dirne, diciamo, due categorie, sì, che da cui abbiamo le evidenze più convincenti. Da una parte si è visto che un consumo di carne rossa al di sopra dei 500 grammi alla settimana può innalzare in maniera significativa il rischio di tumore al colon, quindi anche qui una sede tumorale precisa. E al contrario, sempre per lo stesso tipo di tumore, se invece mangiamo più di 400-500 grammi di frutta e verdura non amidacea, si ha quindi una... Quindi non amidacea vuol dire non patate. Escluse le patate, sì, perché a molti piace pensare che le patate sono verdura. Mangio solo le patate. E in questo caso invece abbiamo un abbassamento significativo del rischio, quindi questo sa indicare come, giocando anche solo sulle proporzioni, sui menu settimanali, si possa incidere in maniera significativa. 800 24 00 24, raccontateci le vostre difficoltà, i vostri dubbi, potete raccontarci anche la vostra dieta, il vostro tipo di dieta. Diteci anche però se siete fumatori, perché, e se siete sedentari, perché il, no, lo stile di vita, dottoressa Luini, come lei più volte ci ha insegnato, non comprende solamente quello che noi mangiamo, ma anche come ci comportiamo. Assolutamente, comprende prima di tutto l'equilibrio psicofisico. Sapete che lo dico ogni volta, ma io ci credo, quello è il fattore determinante. Però ci sono elementi tipo il fumo che mandano realmente in fumo anche i tentativi alimentari, per esempio. Dottoressa Luini, il mese scorso, da uno dei santuari americani della scienza, lei sorride già, la sì, Johns Hopkins University di Baltimora, è arrivata una notizia di un forte impatto mediatico. Il caso, o meglio la sfortuna, avrebbe un peso più determinante nell'insorgenza di alcuni tipi di tumore, dei cambiamenti dello stile di vita che, a detta degli autori, possono avere un grandissimo impatto su alcuni tipi di cancro, ma su altri non hanno influenza. E da qui l'invito degli autori, sì, alla diagnosi precoce. No, facciamo un po' a chiarezza, aiutateci a capire di più, perché notizie di questo tipo da fonti così autorevoli, la rivista, lo studio è stato pubblicato su Science, sì, confondono, e sappiamo, sì, che si legge tanto, abbiamo tante informazioni, il rischio però è di non capirle fino in fondo, è molto alto. Sì, qui c'è veramente un trucco comunicativo. Questi scienziati sanno bene che per arrivare in ogni angolo della Terra, o quasi, devono usare le parole giuste. Allora, se loro avessero detto: abbiamo analizzato tanti tumori e capito che alcuni conoscono prevenzione perché hanno fattori di rischio precisi, sì, per esempio il tumore del polmone col fumo di sigaretta, c'è una correlazione molto stretta. Altri invece, secondo noi e secondo i dati analizzati, non hanno dei fattori di rischio precisi e identificabili, quindi arrivano senza un motivo a noi noto, e sottolineo questo. Quindi il fatto che non sia noto non vuol dire che è il caso. Esatto, loro hanno usato la parola bad luck, le parole bad luck, cioè sfortuna. Perché? Perché in questo modo sono riusciti ad avere impatto nei media. Hanno detto ciò che sappiamo, cioè che alcuni tumori ancora ci sono sconosciuti. Non sappiamo perché arrivino. Conosciamo il meccanismo, il danno del DNA, ma non sappiamo come mai si crei. E questa non è una novità. Se l'avessero detta così, questa non sarebbe stata una novità. Quanto allo stile di vita, loro dicono... può influire, però non abbiamo trovato un'associazione forte con alcuni tumori. Questo non significa che dobbiamo comportarci male, e in particolare loro dicono, visto che non abbiamo trovato dei fattori di rischio precisi, la diagnosi precoce diventa importantissima, perché quella sì che aiuta. Su questo siamo tutti d'accordo, dottoressa Titta. Ma certamente hanno, diciamo, un po' girato la frase, perché come abbiamo detto all'inizio, no, circa il 30% dei tumori si possono prevenire con lo stile di vita, loro invece hanno detto il 70% dei tumori non si possono prevedere, non si possono prevenire con lo stile di vita, quindi niente di nuovo, insomma, solo il modo è stato diverso. Con la dottoressa Titta e la dottoressa Luini oggi cercheremo di capire come avvicinarci, anche facendo i conti con i nostri gusti, con le nostre abitudini, con i denari, perché sappiamo che mangiare bene costa. Cercheremo di avvicinarci ad un modello di dieta che è riconosciuto dalla scienza come protettivo e preventivo, ma iniziano ad arrivare naturalmente le telefonate all'800240024, i messaggi. Dottoressa Titta, abbiamo citato le patate, e naturalmente un ascoltatore ha detto come non le patate? Patate, ecco. No, ma non abbiamo detto esattamente così. No, allora, innanzitutto non ho detto di non mangiare patate, semplicemente sono degli alimenti che non sono inclusi in questo gruppo di alimenti protettivi per il tumore al colon. Però posso aggiungere una cosa. Siamo qua sulle che patate. Prendiamo dalle sue labbra. Perché le patate sappiamo che hanno un alto indice glicemico, quindi insomma stimolano l'insulina, stimolano un metabolismo che non è molto favorevole, diciamo, nel nostro stile di vita. Però se noi prepariamo le patate, le lessiamo e poi le mangiamo fredde, il raffreddamento provoca un cambiamento, diciamo, nella proprio percentuale di fibra, nella composizione dell'amido che retrograda, e quindi le patate hanno un indice glicemico minore. È un po' come se mangiassimo le patate integrali. Dai, vedi questo trucchetto, oltre a cucinarle con la buccia, come diceva il dottor Speciani, anche un po' al dente, vero? Sì, soprattutto lasciarle raffreddare, mangiarle fredde in insalata o vedi, comunque. La patata fredda. Io vivrei con la dottoressa Titta. Anche noi, però. Sì, io vivrei con se voi. Cucina poi anche meglio, guarda. No, ecco, cucinare proprio no. Però io cucino, io me la cavo discretamente. Sì, bene, io posso dare delle indicazioni. Allora, abbiamo Maurizio che ci chiama da Terni, 800240024, benvenuto e buongiorno. Sta parlando con me? Ma se lei abita a Terni, si chiama Maurizio e ha chiamato Cuore Denari, direi di sì. Che dice? Allora, se lei, guardi, ci siamo trovati. Maurizio, grazie, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la vostra trasmissione. La mia domanda cerco di renderla più concisa possibile. Sì. Per una patologia particolare all'occhio, soffro di una maculopatia, il mio oculista mi ha consigliato, anche se non è specificatamente provato che ci siano dei riflessi positivi, di cambiare la mia alimentazione e basarla fondamentalmente, essenzialmente sulla curcuma. Ho approfondito il discorso sulla curcuma su internet leggendo e mi si dice, perlomeno ho ricavato, che questa sostanza è anti tutto, antiossidante, antitumorale, c'ha mille prerogative positive. Volevo chiedere ai vostri esperti. Insomma, un super alimento, una super sostanza. Grazie Maurizio, la domanda è molto bella, perché anche nella nostra scaletta volevamo parlare di curcuma con Deborah. Il ruolo delle spezie è stato, no, ampiamente sottolineato, e ci sono delle conferme che arrivano dalla scienza. Tra le varie spezie, la curcuma sembra, no, un po' la principessa, una star. Ma per assorbirla, assimilarla nel modo corretto, ci sono delle cautele che tra l'altro voi specificate anche nel vostro progetto Smart Food, dove noi siamo andati un po' a curiosare. Dottoressa Titta. Allora, la curcuma è molto studiata ultimamente, insomma è stata elevata a cibo angelico, come spesso succede, no? Si fanno cibi diavoli, cibi angeli. In realtà ci tengo a fare una piccola premessa rispetto a tutti questi alimenti che contengono principi attivi, in questo caso la curcumina, sì. Molto studiati, che hanno un'azione spesso protettiva in vari ambiti del metabolismo, delle patologie, come il caso della curcumina. Attenzione, perché quando si dice antitumorale, antitutto, si dice questo sulla base di studi che spesso sono in vitro, voglio dire, non sono stati fatti sull'uomo, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche curative. Andiamoci sempre molto piano. È indubbio che il consumo di questa spezia sia per esempio protettivo per le malattie cardiovascolari, per cui abbiamo moltissime evidenze anche sull'uomo, anche in studi randomizzati, sì. Però come sempre nell'ambito del tumore è molto più difficile, non ci sono molti studi epidemiologici né poi... Quindi sì, abbiamo delle evidenze, sicuramente è qualcosa che ha un effetto positivo in molti ambiti e quindi noi consigliamo di consumarla, non con l'aspetto curativo di una patologia, che invece lo lascerei a un ambito clinico. Come bisogna aggiungerla agli alimenti in modo che possiamo in qualche modo trattenere un po' dei grassi, diciamo, salutari, quindi olio extravergine di oliva, piuttosto che... Va sempre cotta la curcuma? Si può cuocere, sì, generalmente si aggiunge cotta. Però io suggerisco anche un altro modo che è molto veloce e poi un non, po' da, non inficia. Un po' da Smart Food. Aggiungerà nell'acqua, quando si bolle la pasta o il riso, dà un colore molto, diciamo, piacevole e anche un aroma. Sì, io di solito io usavo lo zafferano, poi lo zafferano costa troppo e devo dire che ho aggiunto la curcuma, che colora e in più mi sembra che faccia altrettanto una bene. Una succhiaiata su una zuppa già pronta? Sì, sì. Perché questo aspetto del doverla cucinare prima mi era sfuggito, per no, esempio. No, però se tu la aggiungi nell'intingolo e la lasci, si lega di più all'olio e il grasso buono. Diciamo che... Allora, si ha una maggior biodisponibilità, però come dico sempre l'importante è mangiarla, quindi se poi abbiamo un modo più, diciamo, per avere una biodisponibilità maggiore, però quando non abbiamo tempo va bene anche un cucchiaino o un pochino. Ottimo. Parleremo di dieta, intesa come stile alimentare, ma dottoressa Luini, come ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica, l'intervento più incisivo sull'alimentazione rispetto alla riduzione dell'incidenza di malattie croniche e all'allungamento della vita è la restrizione calorica. Che consiste in una drastica riduzione dell'apporto calorico introdotto con la dieta, ma senza naturalmente arrivare alla malnutrizione. Tuttavia, come è facilmente intuibile, sarebbe difficile però proporre la restrizione calorica come linea guida nutrizionale. Però la natura ci offre una chance, un'altra possibilità, e la ricerca, quando noi diciamo investite nella ricerca, crediamoci, mettiamo, no, diamo qualche soldino perché la ricerca possa avere i fondi, andare avanti, insomma, la ricerca ha scoperto che nel mondo vegetale ci sono delle molecole attive che agiscono, correggetemi, io ho capito questo, sulle stesse vie genetiche e metaboliche che vengono attivate o spente dalla restrizione calorica. Sì, esatto. Questo non vuol dire che mangiando quelle sostanze uno dimagrisca, ha tutta un'altra cosa, cioè se la restrizione calorica ci fa bene, ma noi non possiamo, non riusciamo ad arrivare ad una restrizione calorica senza rischiare di diventare malnutriti, possiamo cercare di mimetizzare, cioè di ingannare le vie genetiche utilizzando delle sostanze contenute in alcuni alimenti. Non lo so se l'ho detta giusta, però è un concetto abbastanza difficile, perché io non vorrei mai che passasse, almeno da Cuore Denari, mangia questo che ti fa dimagrire, no. Perché noi non stiamo parlando di questo e questo non funziona, non c'è nessun alimento che ingerito che faccia dimagrire. Purtroppo magari. No. Magari. Io avrei un altro fisico se così fosse. Io sarei ricca, milionaria. Ecco, e noi? Io sfilerei su una passerella, perché con l'altezza, sai, se uno fosse con un alimento magico magro, non sarei magari davanti al microfono. Dottoressa Luini, prima dei mercati è così? Sì, sì, è assolutamente così. La restrizione calorica è un elemento di longevità e di salute, però deve essere ovviamente trattata con la dovuta intelligenza, ed esistono alimenti che in qualche modo la mimano. Queste sostanze, dottoressa Titta, ce ne vuole dire dove si trovano, quali sono? Per adesso i più studiati sono ovviamente in alimenti vegetali, sì. E abbiamo la capsaicina, per esempio, che è nel peperoncino, il resveratrolo, che è famoso anche per altri effetti, no? Si trova nell'uva, certo, rossa, e la fisetina, che è presente nelle fragole. Abbiamo, sono sempre, fanno parte della classe dei flavonoidi, polifenoli. Adesso noi dobbiamo andare a sentire Deborah, mm-hmm, con i mercati, con Giulia e con Carlo. Subito dopo andremo a parlare di latte e di alimentazione biologica. Ci sono delle domande, naturalmente vi invitiamo a chiarirvi tutti i dubbi e a raccontarci come cercate di seguire, di organizzare la vostra dieta per renderla al più possibile protettiva e preventiva, insomma per stare bene. Cuore e denari. Viva la mamma affezionata, quella gonna un po' lunga. No, mancano ancora 3 mesi alla festa della mamma, quindi non parliamo di questo stamattina. Abbiamo appena archiviato peraltro San Valentino, per cui diciamo che per questo periodo di feste all'insegna un po' della famiglia siamo a posto, però insomma mamma è all'ascolto, vogliamo dedicarci con particolare attenzione oggi a voi per la pagina di Denari. Sappiamo quanta gioia al cuore può dare l'arrivo di un bebè, ma sappiamo anche quante preoccupazioni possono dare al portafoglio. 800 24 00 24, vogliamo coinvolgere oggi le neomamme e i neopapà all'ascolto. Da loro vorremmo avere il polso delle spese che devono sostenere, ma anche appunto nonne, nonni o chi un figlio lo sta mettendo, per così dire, in cantiere, possono dirci la loro, farci domande sul bonus bebè che è in arrivo, 80 euro al mese per 3 anni, e in presenza di alcuni requisiti il governo ha stanziato appunto questa iniziativa per i nuovi nati. Ne parleremo tra poco. Uno zerbino che ti dice quanto pesi. Il tuo peso è... Scendi, scendi! No! Per te ci sono verdure al vapore e gallette di riso. Aspetta un momento. Ehi, ma io queste le ho sempre usate come sottobicchieri. Sono solo 35 calorie l'una. Pronto? Pronto? Pronto, Gusto? Dove sei? Eccoci qua, torniamo, voi ridete, sono qua tutti che ridono, volevamo un po' strammatizzare. Le gallette come sottobicchieri, in effetti, non ci avevo mai pensato. Buona idea. Potrebbe essere una buona idea ed potrebbe essere anche un'ottima idea chiamare l'800 24 00 24, come state facendo, per cercare di trovare una risposta a dei dubbi. A volte noi dobbiamo fare i conti anche con le nostre predisposizioni, i nostri gusti. Cerchiamo un po' di analizzare. Ad esempio, ci sono persone che la frutta e la verdura non la amano proprio, fanno fatica a mangiarla. Ci sono persone che sono molto carnivore. La carne non riescono a ridurla, non riescono neanche poi, per dire, a eliminarla dalla loro dieta. C'è chi non ama il pesce, quindi iniziate a chiamarci, anzi lo state già facendo. Do subito la parola ai nostri ascoltatori, li avevamo già anticipati, la telefonata di Carlo, buongiorno, e subito dopo quella di Giulia. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Io volevo dare, diciamo, un punto di riflessione e una domanda. Allora, io sono una persona attiva, mi alleno 5 volte a settimana, faccio la corsa e mi alimento in modo adeguato, quindi semi oleosi, centrifughe tantissime, carne praticamente zero, pesci pescati non direttamente, eccetera eccetera. La domanda mia, il punto di riflessione è: tutta questa cosa mi costa tantissimo, non in termini di tempo, ma in termini proprio economici. Certo. Fondamentalmente, se io dovessi acquistare invece carne piuttosto che altri alimenti, le mie spese si... Infatti è un po' quello che abbiamo anticipato, Carlo. Cioè, ormai oggi, e Deborah lo sa bene perché abbiamo dedicato delle puntate, mangiare bene costa, la qualità costa. Ma... Carlo? Questo è cosa dice? No, dico che paradossalmente quello che prima era accessibile alle persone più povere, oggi invece è accessibile solamente alle persone che hanno una capacità di spesa maggiore. Certo. Quindi si è rovesciato tutto. Quindi diciamo, questo approccio salutistico dovrebbe essere, voglio dire, accessibile anche a tutta la popolazione. non solamente a determinate fasce di popolazione. Su questo siamo tutti d'accordo e speriamo, no, che ci siano delle, no, dottoressa Titta, che ci siano delle politiche che permettano di avere, no, dare alle persone la possibilità di riempire i carrelli della spesa con non cibo spazzatura, ma con alimenti di qualità. La domanda sua, Carlo, però, qual è? La domanda mia era, ho sentito delle patate che quando la patata, sono fredde, vede, la patata fredda ha un indice glicemico diverso dalla patata calda. Vale lo stesso discorso per la pasta? Sì. La pasta fredda? Bravo, Carlo, lei vede? Ha subito associato, scatta Carlo, il libro, quindi scatta il libro. Carlo, è più contento perché la pasta fredda le piace? Le piace? È più comoda? Sì, io, a parte ha molto al dente che abbassa la curva glicemica, se pure fredda allora è meglio. Un esperto. Un esperto, Carlo, la prossima volta lo invitiamo qua. No, anzi, quando veniamo costoso da Roma, ecco, un piatto di pasta. Con un piatto di pasta, un goccio di olio extravergine d'oliva, anche più di un goccetto, no? Certo. Ecco. Noi siamo a posto, un po' di parmigiano per chi lo mi piace anche molto. Pasta e legumi, che è molto economica e in realtà possiede tutto il corredo aminoacidico che ci serve. Quindi, volendo, ci sono delle strategie per coniugare gusto, salute e soldi. Insomma, delle strategie alla cuore denari. Dove andiamo? Avevamo un appuntamento con Giulia. Giulia, avevi anticipato Giulia. Giulia da Bergamo, benvenuta. Buongiorno. Niente, allora, la mia domanda era questa. Volevo capire se c'è un'evidenza scientifica tra il consumo di latte e latticini e non dico l'insorgenza, ma comunque probabilmente sì, anche l'insorgenza del tumore al seno alla prostata, o comunque che predisponga di più all'insorgenza di questi due tipi di tumori. E mi interessava capirlo anche perché io ho una storia di tumore alla mammella della nonna, della mamma. Io ho già avuto delle microcalcificazioni al seno, quindi ho fatto due interventi e vorrei capire quanto questo influisca per me, per mia figlia, ed eventualmente se fosse vero se tutti i tipi di latte o solo il latte vaccino. Grazie Giulia, una bellissima domanda che ci permette di parlare di familiarità, perché Giulia ha una storia familiare, e poi di capire dalla dottoressa Titta, fare il punto sui dati sul latte, che è un alimento che viene, latte vaccino, viene molto discusso anche non solo in campo scientifico, ma anche da chi non tratta dati scientifici. Ciascuno di noi si è fatto un po' un'idea da quello che legge sul latte, c'è chi l'ha eliminato, chi invece è convinto e quindi lo consuma, chi lo alterna ai latti vegetali. Dottoressa Luini. Sì, è una domanda molto frequente nel quotidiano e quindi è davvero importantissima. In realtà no, il rischio di tumore al seno, cioè il rischio diretto di insorgenza di tumore al seno o il rischio di recidiva nelle donne che hanno avuto tumore al seno, non dipende dal consumo di latte e latticini, a patto che, ma questo è ovvio e vale per qualsiasi alimento, latte e latticini siano inseriti in un consumo vario, cioè non siano l'alimento dominante quotidiano. Ma non sto dicendo che siano pericolosi, sto dicendo che ogni alimento potenzialmente può far parte della dieta, e in ogni caso non c'è una relazione diretta tra il latte e il tumore al seno. Quindi chi ritiene di avere più familiarità o più rischio familiare, mettiamola così, può bere latte, perché non esiste alcuna evidenza che dica che questo latte provoca il tumore. Mettiamola e anche così. Per il tumore alla prostata. Anche per il tumore alla prostata, che è un tumore ugualmente legato agli ormoni, e ugualmente non c'è alcuna evidenza che dica che gli uomini non devono bere latte. È chiaro che quando ci alimentiamo con una sola cosa tutti i giorni in quantità esagerata, questo non è, questo è buon senso, non ci fa bene, ma non ci fa bene prima per altre ragioni, non per il dottoressa tumore. Titta, questo perché è molto frequente, è una domanda che ci fanno spessissimo. Nasce dal fatto che sono stati effettuati degli studi, ma sono studi singoli che non hanno ancora trovato un consenso, una condivisione dalla comunità scientifica, perché non sono ancora sufficienti, che hanno trovato delle correlazioni col consumo di latte e l'innalzamento nel sangue di alcuni ormoni che sono a loro volta correlati con, in alcuni casi, con l'insorgenza di tumore. E quindi diciamo che su questo sono basate queste informazioni che girano, ma in realtà non abbiamo evidenze scientifiche convincenti. Ne approfitto per dire una cosa, che questa cosa del latte è la prima domanda che ci fanno tutte le donne che hanno avuto tumore al seno. Nessuno invece chiede dell'alcol, che invece sappiamo, altro che latte, l'alcol invece è correlato in maniera, diciamo, purtroppo negativa con l'insorgenza di tumore al seno. E ne basta davvero poco. Io vero, dottoressa? Più di un'unità alcolica al giorno, quindi più di un bicchiere di vino al giorno, innalza il rischio di insorgenza di tumore al seno. Beh, per non parlare, visto che l'alcol è diventato l'argomento, per non parlare dei danni al fegato che l'alcol fa, epatiti croniche, la cirrosi, la morte per alcolismo. L'alcolismo che riguarda sempre più giovani. L'alcol adesso è a disposizione di tutti, spesso a prezzi bassi, combinazioni alcoliche improbabili, l'alcol insieme alla frutta, insieme agli zuccheri, quindi il disastro dal punto di vista sia nutrizionale che della salute, certo. E con dei danni che sono danni gravissimi, perché i danni da alcol sul fegato sono spesso danni permanenti e irreversibili. Quindi non c'è bisogno di parlare di tumore al seno, che comunque è importantissimo, certo, perché l'alcol è un fattore di rischio per tumore al seno, ma pensiamo alla salute generale. Allora andiamo all'ultimo ascoltatore di questa prima parte di Cuore Denari, che ci apre un altro capitolo molto importante. Giovanni da Verbania, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno a tutte, bellissima trasmissione. Grazie. La rifaremo allora al più presto, Giovanni. Bel percorso, grazie. La mia domanda, la trasmissione è interessantissima sotto molti punti di vista, però la prima cosa che mi ha colpito è la storia della carne rossa, che più di 500 grammi a settimana, quello che ho sentito, può predisporre al tumore al colon, giusto? Sì. Allora, presupposto che io mangio veramente di tutto, mi piace veramente di tutto, dal dolce al salato, dalla verdura alla carne. Però questi 500 grammi, insomma, li sono suonati male. No, mi sono suonati male perché... Ha fatto già il conteggio. No, io veramente... No, mangio veramente di tutto, quindi c'è la settimana in cui magari di carne rossa ne mangiamo un chilo in casa, quindi magari io sì, mezzo chilo, 200 grammi li mangio. Ma perché è così pericolosa rispetto alla carne bianca? Grazie Giovanni, la dottoressa Titta va a nozze e poi ci darà anche qualche indicazione, perché proprio la carne, insomma, rischia di superare il consumo suggerito o tollerato di carne. Innanzitutto definiamo carne rossa, perché per molti magari non è chiarissimo, e carne rossa si intende manzo, maiale e agnello, sì, quindi comprende anche tutti i salumi, ci tengo a specificarlo, perché carne rossa si identifica, esatto, si identifica carne fresca, no? Certo. Invece in realtà già si mangia il panino, il prosciutto 2-3 volte alla settimana, così, in più è salata, eccetera. Comunque non abbiamo, in realtà non sappiamo bene il meccanismo alla base di questa evidenza, sì, che riguarda solo le carni rosse, non perché diciamo per altri motivi se non quelle per cui gli studi epidemiologici hanno evidenziato che il consumo solo di questo tipo di carne è correlato con il tumore al colon e non il consumo di altre carni come le carni bianche. Sono state fatte delle ipotesi, i contenuti di grassi nella carne rossa che sono più alti rispetto alla carne bianca, il tipo di molecole che sono contenute, però in realtà non abbiamo il meccanismo alla base di questo effetto. Però Solo il consumo, cioè di tutte le popolazioni, migliaia e migliaia di persone studiate nella vita. I dati ci dicono, quindi, allora, torneremo naturalmente ad affrontare questo tema, tantissimi messaggi, se ci scrivete a Cuore Denari noi gireremo le vostre mail alla dottoressa Luini e alla dottoressa Titta. Però intanto Smart Food si può andare a controllare. Certo, sì, grazie. L'abbiamo citato in apertura, una pagina ricca di consigli. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Buona giornata. E adesso andiamo a sentire cosa sta succedendo sulle strade italiane, poi parliamo di bambini e del bonus bebè in arrivo. Cuore e denari. Renzi ha fatto questo bonus straordinario degli 80 euro per tutti i bambini che nascevano dal 1 gennaio. Ma voi immaginatevi, non quelli che nascevano il 1 gennaio, e mi immagino le mamme che dovevano partorire il 31 di dicembre, che ci mancavano poche ore per avere il bonus. Scene di panico, mamma che si trattenevano. Allora, questo era Alessandro Siani nel suo intervento alla prima serata di Sanremo di quest'anno, intervento che peraltro è stato anche al centro di qualche polemica sulla quale ovviamente a noi non interessa tornare, e però è un intervento in cui, tra le tante cose, come avete sentito, ha scherzato proprio sul tema che invece abbiamo scelto oggi per la nostra pagina di Denari. È praticamente in asse di partenza il bonus di 80 euro per le neomamme previsto dalla legge di stabilità. Le norme attuative dovrebbero arrivare da un momento all'altro, quantomeno entro la fine di febbraio. In tutta probabilità il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta proprio entro la fine del mese, un provvedimento che è molto atteso, perché si tratta di un altro piccolo assegno mensile da 80 euro, è proprio l'equivalente del bonus per i lavoratori dipendenti dai redditi appunto bassi, per le mamme che hanno partorito dal 1 gennaio. L'aiuto economico però non spetta proprio a tutti, ma solo a quelle famiglie che in base al nuovo ISEE hanno un valore tra virgolette non superiore ai 25.000 euro. Oggi torniamo a fare un punto sul tema per fare in modo che tutti i genitori all'ascolto che ne hanno diritto possano avere gli strumenti pronti per inoltrare le domande. Ciao e ben trovato a Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Buongiorno. E ben ritrovata anche la dottoressa Paola Franzin, esperta in tutela della maternità e della paternità presso il patronato INAS CISL Nazionale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Eccoci qua. 800 24 00 24, chiaramente il numero verde per voi, per le vostre domande. Raccontateci se nella vostra famiglia, fra gli amici più stretti, c'è già un bebè che è nato proprio all'inizio di quest'anno, che nascerà entro la fine del 2015. Raccontatecelo, diteci tutto. Come si chiama? Se è un maschietto o una femminuccia? Ma raccontateci anche se avete già capito se questo nuovo nucleo familiare più largo, più ampio, avrà delle difficoltà economiche. Chiaramente impegno economico in più c'è, è innegabile, e allora quali spese aggiuntive si dovranno sostenere per il nido, i pannolini, per la ricerca di una casa più grande? Certo, 80 euro al mese non risolvono, però insomma qualche pannolino in più lo fanno comprare. E soprattutto stamattina vi aspettiamo con le vostre domande per il funzionamento del bonus bebè. Matteo Prioschi, inizio con te, perché da qualche tempo anche tu stai scrivendo sul Sole 24 Ore di alcune indiscrezioni che circolano sulle indicazioni operative di questo provvedimento, no? Allora vediamo cosa siamo in grado di riepilogare oggi, ribadendo il fatto che il provvedimento sarà in Gazzetta auspicabilmente entro la fine del mese. Quali sono i punti centrali del provvedimento? Perché di bonus bebè, lo ricordiamo, ne abbiamo fatte tante puntate, ne abbiamo avuti altri in passato. Quali sono le caratteristiche distintive di questo da 80 euro al mese? Sì, allora, le caratteristiche principali sono che appunto viene riconosciuto a tutti i nati dal 2015 al 2017 incluso, e avrà una durata triennale, quindi chi nasce nel 2015 poi lo può avere fino al 2016 e tutto il 2017. Viene riconosciuto ai nuovi nati, ma anche ai bambini adottati. In tal caso vale la data di ingresso in famiglia. L'importo appunto è di 960 euro all'anno, che poi vengono erogati 80 euro al mese, per quei nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, con l'ulteriore opzione per le famiglie più in difficoltà, che quindi hanno un ISEE non superiore a 7.000 euro, in quel caso il bonus raddoppia e si arriva a 160 euro al mese e 1.920 euro all'anno. E là comincia sì a fare un po' la differenza, la cifra, che dice, no? Infatti. Male. Allora, sentirei subito Carlo da Cagliari, Nicoletta, se sei molto d'accordo, volentieri, che ci fa entrare immediatamente nel vivo dell'operazione. Carlo, benvenuto, ma poi soprattutto dobbiamo fargli gli auguri. Carlo. Grazie, salve, buongiorno a tutti. Senti com'è emozionato, già lo sento dalla voce. Carlo, che succede oggi? Beh, dovrebbe essere questo pomeriggio, perché diciamo come date ci siamo, come giorni ci siamo, però diciamo che il bambino è molto comodo e quindi oggi, oggi sta bene, oggi doveva uscire, sta bene, quindi diciamo che il medico ci ha detto che probabilmente stasera farà l'induzione, quindi nascerà stasera. Sì. Bene. Allora, intanto abbiamo capito che è un maschietto, perché lo chiama già al maschile. Ecco qua. Ho detto bambino perché non abbiamo ancora definito il nome, ecco, quindi è per quello abbiamo un po' di... Sbrighi perché avete di poche ore di tempo. No, ma poi quando lo guarderà in faccia dirà, saprà, guarda, alla faccina verrà, da Roberto, verrà, da Andrea o chissà da che altro. Sì, abbiamo detto se nasce chiaro un nome, se nasce scuro un altro nome. Ecco, vede che avete già delle indicazioni precise. E allora voleva sapere, Carlo, se ci sono i requisiti per il bonus? Sì, più che altro volevo sapere, siccome ci siamo mossi abbastanza in anticipo anche su questo discorso bonus, perché è un'altra sicuramente cosa utilissima, però anche il consulente, noi ci siamo avvicinati a gennaio, non sapeva tantissimo, quindi è proprio un discorso proprio concreto, a chi bisogna consegnare poi i documenti, chi erogherà poi il bonus bebè, poi volevo sapere se c'è un plafond che poi potrà terminare oppure se uno ne ha diritto e gli verranno dati gli 80 euro. Carlo, grazie proprio per la puntualità delle domande, direi. Dottoressa Franzin, immagino che siano le stesse domande che arrivano anche ai patronati in questo periodo, per chi è particolarmente attento alle notizie, quindi vuole informarsi per tempo. E possiamo rassicurare Carlo sul fatto che non esiste un plafond, nel senso che se una famiglia ha diritto lo ottiene per tutto questo triennio, poi a patto che naturalmente magari cambia la situazione economica della famiglia. Noi lo auguriamo a tutti, chiaramente, che i redditi moltiplichino. Se cambiano i requisiti, il diritto può essere perso, però in teoria non c'è un plafond, no? No, dottoressa Franzin. Sì, la legge lo ha previsto e per quanto riguarda l'importo, diciamo che noi ci auguriamo, insomma, che l'importo non verrà ritoccato. È previsto un monitoraggio, lo svolgerà l'INPS, e in caso di scostamenti rispetto alle previsioni fatte è possibile che vengano ritoccati sia i livelli di ISEE e sia purtroppo l'importo dell'assegno. E, questa situazione è un po' simile a quella che è accaduto per il voucher babysitter e asili nido, e cioè nel caso di sforamento del plafond è stato reintrodotto lo stesso meccanismo di aggiustamento nel caso di sforamento. Però diciamo che no, stavo dicendo il fatto che non è previsto il plafond, diciamo che teoricamente il governo vorrebbe accontentare tutti, è abbastanza difficile che dica no, la nascita del cinquantesimo bambino interromperà l'erogazione, no? È chiaro che poi non si può fare una stima di quanti bambini nasceranno da qui al triennio. Diciamo infatti che sulla base delle nascono sempre meno bambini, brava, anche gli stranieri che prima avevano supportavano un po' la nostra demografia, invece adesso lo fanno meno. Teoricamente si dovranno accontentare tutti. Perché lei parlava di questo? No, non possiamo parlare dello scostamento che ha anticipato la dottoressa Franzin, lo facciamo dopo il giornale radio. Cuore e denari. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Insomma, se c'è un bebè a bordo, se sta per arrivare nelle vostre case, questa pagina di denari è quella giusta per voi. Ci riferiamo in particolar modo ai bebè che sono nati all'inizio del 2015, che oltre a portare tanta gioia, felicità, qualche notte insonne, portano anche il bonus bebè, no? Se si hanno i requisiti economici per poter far richiesta di questo beneficio, di questo incentivo economico, naturalmente oggi vi spieghiamo tutto quello che è necessario fare per poterne fare richiesta, naturalmente a patto che al più presto il provvedimento sia in gazzetta, altrimenti ancora dobbiamo rimandare di qualche settimana. Ne stiamo parlando con Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, con Paola Franzin, esperta in tutela della maternità e della paternità presso il patronato INAS CISL nazionale. Avete già cominciato a chiamarci in molti all'800 24 0024. L'amico di Cagliari sta per avere il suo bambino proprio oggi. Stasera. Esatto, è proprio indotto. Questione di pochissimo. Allora, gli abbiamo spiegato che teoricamente diciamo il plafond c'è la disponibilità finanziaria da parte del governo, ma diciamo che si calcolano un po' anche questi plafond, Matteo, immagino sulla base un po' del trend delle nascite che c'è stato negli ultimi anni, quindi ammettiamo che tutti possano essere accontentati. Poi la dottoressa Franzin ci ha spiegato che verrà fatto da parte dell'INPS un monitoraggio sui requisiti delle famiglie che ne fanno richiesta per vedere se i requisiti vengono mantenuti nel corso del triennio. E poi la domanda a chi va presentata, Matteo Prioschi? La domanda va presentata all'INPS e appunto si doveva aspettare la pubblicazione di questo decreto ministeriale che contiene tutte le indicazioni. Poi ci saranno altri 15 giorni di tempo prima che diventi vada in vigore e il tempo tecnico dell'INPS per recepirlo e pubblicare a sua volta una circolare con tutte le istruzioni. Certo. Quindi il soggetto di riferimento comunque sarà l'INPS, che farà appunto questo controllo sui requisiti, ma poi appunto è giusto quello che si diceva prima, cioè c'è un controllo anche sul budget. Il governo ha stimato che il budget messo a disposizione dovrebbe coprire, diciamo, le nascite delle persone che rientrano con i requisiti, però è vero che c'è questa clausola di salvaguardia finanziaria, per cui se ci si accorge che invece le nascite sono molte di più, o comunque che le domande sono molte di più di quelle che sono i soldi a disposizione potrebbe esserci una rimodulazione. Certo. Allora, intanto partiamo e speriamo di cominciare ad accontentare qualche genitore che naturalmente deve fare qualche piccolo sacrificio economico in più, visto che la famiglia si è ampliata, allargata, per fortuna. Tra l'altro c'è Teresa da Udine, stavo guardando, che ci scrive: volevo avere informazioni sui voucher per babysitter, vincoli e condizioni. Dottoressa Francine, il nuovo bonus bebè cancella quello precedente o abbiamo ancora in vigore il voucher babysitting che era stato varato dalla riforma Fornero? Sono perfettamente in vigore e compatibili, anche perché si tratta di due disposizioni molto diverse. Il voucher babysitting in realtà è un contributo che viene dato a fronte di una rinuncia da parte della lavoratrice del congedo parentale, quindi è cosa ben diversa. Benissimo, quindi diciamo che questo nucleo familiare potrebbe fare richiesta di entrambi i sostegni, i sussidi, chiamiamoli così? Una incompatibilità, c'è una differenza sostanziale che è quella del congedo parentale, quindi sono presupposti diversi, finalità diverse. Chiarissimo. La conciliazione, l'altro è per il bambino ed è un contributo economico. Ecco, tra l'altro, a proposito di questo, lei ha detto è collegato al bambino. Il bonus, anche se chiaramente viene stanziato sulla base di determinati requisiti economici, l'ISEE, eccetera, leggevo proprio, e forse lo spiegava proprio lo stesso Matteo sul Sole 24 Ore, che il bonus è collegato al bambino e non ai genitori. E questo significa che, per esempio, in caso, ammettendo che abbiamo in ballo, insomma, una famiglia di genitori separati, in cambio di affidamento da un genitore ad un altro, il primo perde il diritto e il secondo deve fare domanda. Matteo? Sì, esatto. Dovrebbe essere una delle indicazioni contenute appunto nel decreto, che il bonus appunto non è in capo ai genitori ma al bambino, quindi segue, diciamo, il destino del bambino. Quindi, come purtroppo accade spesso, a fronte di famiglie separate, piuttosto di situazioni che si vanno evolvendo nel corso del tempo, ha, diciamo, la possibilità di beneficiare il bonus chi avrà l'affidamento o comunque bambino in carico il bambino. Allora, andiamo a sentire. Allora, prima di sentire gli ascoltatori, che sono tanti e stanno chiamando l'800240024, ma ci stanno seguendo anche su Twitter. Brava, Francesca ci scrive che il suo bambino nascerà a giugno, certo, sarà quindi forse dei gemelli come me e come Deborah, esatto, e noi siamo due gemelline. Esatto. Chiusa la parentesi. No, direi invece di continuare sul terreno del gemello. Sì, volevo solamente rispondere a Lorenzo da Padova, che ci scrive se il bonus è valido anche per le coppie di fatto. Dottoressa Francine, avendo specificato poco fa che il bonus è collegato al bambino e non ai genitori, come risolviamo in questo caso? Non dovrebbero esserci dubbi in merito all'aspettanza, anche nel caso di genitori che non sono legati dal vincolo matrimoniale, assolutamente. Se è per il bambino è tutelato a prescindere dal legame tra i genitori. Certo, qua il tema è capire. Direi di sì, attenderemo il decreto anche su questo, ma su questo credo che non dovrebbero esserci dubbi. Diciamo, insomma, questo governo così progressista, non vorrei che proprio mi scivolassero su questa buccia di banana, anche perché... la banana biologica di prima, esatto, no, perché con i mutamenti sociali che stiamo registrando giorno dopo giorno, ci manca pure che vengono esclusi dal beneficio i genitori che formano queste coppie, i bambini di queste coppie. Allora, a proposito di gemelli, io andiamo so che a lei. Tu vuoi andare da Lucia, che ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno, salve, io sono Lucia, complimenti per la trasmissione. No, complimenti a lei, Lucia. Grazie, e niente, io volevo solo sapere se in caso di gemelli, visto che io sono attesa di due gemelli, che nasceranno verso settembre, era possibile avere un doppio bonus? O come funzionava la cosa, insomma, essendo collegata al bambino, Matteo, cioè il buon senso ci suggerisce. Sì, in teoria sì, perché appunto aspettiamo sempre i decreti attuativi. Comunque, siccome il bonus è collegato a ogni bambino che nasce, si ha diritto a due bonus. Certo. E la stessa cosa vale, ad esempio, se chi farà un figlio quest'anno e un altro l'anno prossimo, o un altro nel 2017. Avrà diritto a due bonus, ognuno per ogni bambino. Certo. Uno che inizierà, ad esempio, nel 2015, finirà nel 2017 dopo tre anni, l'altro poni caso che il figlio nasce nel 2017, chiederà il bonus nel 2017 e avrà 3 anni di bonus a seguire. Ah, quindi non è che poi termina tutto nel 2018? Noi no. Quando diciamo che vale per il triennio 2015-2018 no. Facciamo riferimento ai bambini che nascono quest'anno. Allora, viene riconosciuta le nascite 2015-2016-2017, per ogni nascita vale 3 anni, quindi... Chi nasce nel 2017 si prende 18, il bonus 19, per i 3 anni. Fino al 19. 19-20. Allora, dottoressa Franzine, visto che anche Matteo ha detto più volte aspettiamo i provvedimenti attuativi e soprattutto voi che dovete dare informazioni molto precise e dettagliate a tutti quei a tutte quelle persone, le famiglie, i contribuenti che si rivolgono ai patronati per gestire tutte le loro questioni fiscali e non solo, quali sono gli aspetti proprio un po' più nebulosi del provvedimento sui quali aspettate dei chiarimenti precisi e dettagliati? Ma sicuramente per quanto riguarda i genitori affidatari, in realtà la norma prevede adozioni e nascite, non c'è un riferimento a genitori affidatari. E nel caso di affidamento condiviso spero che ci sia un chiarimento e l'altro aspetto che va sottolineato è quello relativo ai genitori che stranieri, non appartenenti all'Unione Europea, che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Chiaro, capirà che già peraltro non ne dico che messaggi. Un problema che si è verificato anche in altre situazioni. Mm. Cioè, nello specifico? I cittadini stranieri beneficiano, in base alla direttiva europea, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano e tra le prestazioni elencate rientrano le prestazioni familiari e le prestazioni di maternità. Però lei vorrebbe dire, voglio capire se è necessario appunto che venga corredata per esempio la domanda con la presentazione anche del documento che indica il soggiorno, no? Come diceva il permesso di soggiorno. Adesso sul modulo vedremo appena l'INPS pubblicherà le istruzioni, quali saranno certo. Le indicazioni che fornirà, però insomma un chiarimento anche in questo senso sarebbe più che opportuno. Direi di sì. Tra l'altro, a proposito, allora, la domanda va inoltrata all'INPS, ci raccontava prima Matteo Prioschi, si fa tutto online, telematicamente, bisogna avere il fantomatico PIN dispositivo, Matteo? Allora, anche qua attendiamo, ma è probabile di sì, perché visto come, diciamo così, qual è il trend ultimo delle pratiche, dei bonus, degli incentivi che vengono gestiti dall'INPS, molto probabilmente sì. Prima si accennava ad esempio al voucher, quello babysitter. Per babysitter e asili nido, che si fa tutto online obbligatoriamente, quindi molto probabilmente anche questo sarà fatto anche perché online. Così almeno c'è questo flusso di informazioni all'INPS che poi avrà più facile, vita più facile quando dovrà fare questo famoso monitoraggio di esatto. Cui parlavamo prima. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, appunto, sempre fermo restando che stiamo parlando ancora di un provvedimento di cui conosciamo per sommi capi tutte le caratteristiche, ma ancora molti dettagli operativi mancano, però insomma possiamo... Perché non l'abbiamo fatto né io né Deborah, perché molti ascoltatori ci scrivono, perché non è a partire da dicembre... Esatto, no, infatti allora no, rispondo ascoltatore, no? Che ci scrive: ho avuto Leandro il 24 dicembre, noi siamo ben contenti per questa famiglia, perché non hanno pensato di farlo da dicembre, molte famiglie sono rimaste escluse. Posso rispondere a questo ascoltatore? Mia sorella ha avuto la sua terza bambina ad aprile di un anno fa, perché allora non è stato esteso a tutto lo scorso anno, perché si fanno delle scelte sulla base delle disponibilità finanziarie che uno Stato ha, e evidentemente si cerca in questa maniera anche un po' di tirare la volata a qualche nascita in certo. Italia, perché qua siamo un po' in affanno. Allora, dimmi un po', vai, ti dove piace vuoi. Andare a Venezia o a Roma? A Venezia, perché forse Camilla aspetta un pochino di più di Leonardo. Venezia, allora con Camilla, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Benvenuta, ci dica. Grazie, io sto aspettando una bambina che nascerà a giorni. E a giorni, io Camilla, sì. Sì, sì. E chi è che arriva intanto? Ci dica come la chiamerete. Daria. Benissimo. Sì. E io e il mio compagno però non siamo sposati. Mm-hmm. E mi chiedevo se il reddito ISE era cumulativo per quello del papà e per quello della mamma, o valeva solo quello della mamma in questo caso, non essendo sposati. Allora, abbiamo già appunto detto prima, sulla base di quello che sappiamo, non avendo il provvedimento attuativo, quello che potrebbe succedere per le cosiddette famiglie di fatto, dottoressa Franzin. Riepiloghiamo a beneficio di Camilla, ma anche degli ascoltatori che si trovano nella medesima condizione. Quali, teoricamente, dovrebbero essere le regole per chi ha una famiglia di questo tipo? Ci sono alcune differenze con riferimento ai redditi da considerare. Immagino, ma non è stato chiarito, che sia necessario fare un ISE per minori, questa è una prestazione per il bambino, e è abbastanza complessa la casistica relativa alle differenze tra l'ISE e minori nel caso di coppie di fatto e di coppie in realtà non conviventi tout court. Quindi è necessario recarsi a un CAF e farsi fare un ISEE. Certo, però se il bambino viene riconosciuto da entrambi, immagino che l'ISEE si calcolerà sulla base del reddito congiunto. Matteo, quale potrebbe essere l'interpretazione di buonsenso? Esatto, ho detto una parola magica che molto spesso non guida proprio l'azione di chi decide certe cose. Bisogna stare a vedere, perché appunto bisogna vedere se viene considerato comunque il nucleo familiare in quanto tale, oppure non essendo sposati e magari non conviventi, se invece si tiene a valorizzare solo il reddito di un genitore. Ma Camilla non ci ha detto che non è convivente. No? Esatto, diciamo che ha detto solamente che non sono sposati, no? Camilla, sì, col suo compagno. Sì, esatto, sì. Però diciamo che stavo pensando, è chiaro che se questo tema non viene chiarito, scusate il gioco di parole, i nuclei familiari composti da genitori conviventi utilizzeranno il reddito più vantaggioso per fare richiesta. Matteo, allora lì anche che tipo di monitoraggio verrà fatto, ammettendo che Camilla guadagna 10.000, il suo compagno 70.000, come io le auguro, perché io alla fine auguro anche a tutti di non aver bisogno del bonus bebè. Ma è chiaro che Camilla però poi non è giusto neanche che lo ottenga, no? Adesso se devono attendere le indicazioni precise a questo riguardo, esatto. Infatti. Che arriveranno? A fine mese. Quindi siamo già pronti sulla rampa di lancio con un'altra puntata a marzo. Intanto Camilla avrà già avuto Daria. Esatto. Che sarà bellissima. No, posso fare un'altra domanda? Scusami, perché sai, ce l'ho in mente da 20 minuti e poi me la dimentico. Matteo, allora, nasce Daria entro qualche giorno al nostro amico di Cagliari, suo bambino nasce oggi pomeriggio, che tempo hanno per fare la domanda? Allora, una volta che sarà andato a regime il sistema, ci sono 90 giorni dalla nascita. Siccome adesso il bonus non è ancora partito, perché appunto bisogna ancora attendere tutti gli adempimenti, quando entrerà in vigore il decreto scatteranno 90 giorni. Quindi per tutti quelli nati prima della pubblicazione dell'entrata in vigore del decreto devono stare attenti, monitorare la situazione, controllare il sito dell'INPS e verificare da quando scatteranno questi 90 giorni, perché ci saranno 90 giorni da quella data per fare richiesta, così come quando uno nasce ha 90 giorni di tempo per farla. Se lo fa entro i 90 giorni ha il bonus integrale per tutto l'anno, dal minuto zero, diciamo dal giorno zero da quando è nato il bambino o è entrato in famiglia. Se invece lo fa dopo i 90 giorni perde i tre mesi, diciamo, perde il tempo precedente. Se lo fa dopo 4 mesi 5 mesi, il bonus si calcola al momento in cui si fa non la domanda, non perde il diritto al bonus, ma perde insomma questi tre mesi tempo, sono 8, giorni. 16, 24 cominciano ad essere 200 euro che fanno comodo. Andiamo, allora, a vogliamo andare a Roma. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Senta, io avevo chiamato, allora, mia figlia è andata in maternità il 2 dicembre, ha partorito Alessio il 3 di febbraio, ha percepito gli 80 euro che il governo aveva dato a giugno, li ha percepiti... È lì che piange Alessio, è lui, vero? Sta piangendo. Il voucher però, no Leonardo, questo era il voucher babysitting? No, è legato comunque. Perché gli 80 euro, adesso che è andata in maternità, gliel'hanno tolti. Allora Leonardo, non so, bisogna capire se è un'iniziativa del Comune di Roma. Dottoressa Franzin, lei ha un'idea su per giù di che cosa si può trattare? Perché il voucher babysitting peraltro non era neanche di questa cifra. Dottoressa Franzina, l'abbiamo persa. Non si tratta di una prestazione di maternità. Noi abbiamo uno sportello telefonico, possiamo esaminare la situazione vedendo la documentazione effettiva. Esatto, però in ogni caso, Leonardo, non è il provvedimento di cui stiamo parlando questa mattina, perché i nuovi 80 euro, nuovi di zecca, nessuno ancora li ha presi, perché non è possibile neanche ancora fare la domanda. Allora, visto che ce l'ha detto, dottoressa Franzina, a quali numeri risponde il vostro sportello telefonico? Così oggi sarete tempestati. Sì, no, il mercoledì mattina noi facciamo un'informativa a livello nazionale dalle 9.30 alle 13 e lo sportello risponde al numero 06 84 438 359. Perfetto, così lo mettiamo anche su Facebook e per tutti gli ascoltatori che fossero interessati a rivolgersi ai vostri sportelli. Abbiamo ancora un paio di minuti di tempo. Che cosa non abbiamo detto di importante su questo provvedimento, su questo sostegno, Matteo? Sicuramente qualche informazione ci è sfuggita. Colgo l'occasione, mi riagganciando nell'ultima telefonata, probabilmente l'ascoltatore faceva riferimento al bonus Renzi, quello di 80 euro per i redditi sotto i 26.000 euro, può essere quello. Ah, il bonus in busta paga. Esatto, sono comunque due aiuti che sono paralleli e indipendenti tra loro, quindi uno non incide sull'altro. Se quest'anno la figlia dell'ascoltatore non ce l'ha, magari perché non rientra più nelle condizioni che c'erano prima, però sono due cose parallele, coincide solo l'importo, gli 80 euro, ma diciamo che le cose sono indipendenti. Un'altra informazione che possiamo dare è relativa al nuovo ISEE, no? Perché magari qualche famiglia è convinta di avere le condizioni economiche per poterne far richiesta e poi magari quest'anno, qualche cosa è cambiata. Sul nuovo ISEE, appunto, nuovo ISEE perché è entrato in vigore quest'anno, tra l'altro con un po' di difficoltà, per cui l'invito a tutti è chi non ce l'ha di procurarselo, farselo calcolare, perché appunto l'andata a regime è stata un po' più complicata del previsto. Peraltro una delle ultime novità riguarda una sentenza del TAR di settimana scorsa, il TAR Lazio, che ha bocciato la parte dell'ISEE per quanto riguarda gli aiuti economici che vengono erogati ai disabili, che vengono considerati quale elemento economico, appunto, reddituale per il calcolo dell'ISEE. Quindi anche qui probabilmente ci sarà un assestamento della normativa nei prossimi mesi. Comunque, appunto, il meccanismo è più complesso di quello che c'era in vigore fino all'anno scorso. Servono più dati e la procedura, in teoria, una volta che la si riesce a avviare, invece dovrebbe essere veloce, perché l'INPS dovrebbe rispondere entro 10 giorni lavorativi. Però, appunto, essendo un passaggio fondamentale, prima lo si fa meglio è, meglio è perché così quando poi arriverà questo benedetto decreto, quando ci sarà l'istruzione, abbiamo tutti i documenti pronti. Non è comunque un click day adesso, se il vostro bambino nasce il 3 non è che il 4 di marzo o di aprile dovete fare la domanda, avete qualche giorno di tempo per assestare il nuovo nucleo familiare e poi chiedere il contributo. Grazie a Matteo Prioschi, grazie a voi. Buon lavoro. Grazie a Paola Franzin, buon lavoro anche a lei, a presto. Grazie a voi, a presto. Noi torniamo domani. Torniamo. Certo, ringraziamo Filippa Ureggi in regia, la parte tecnica, Isotta Scenna, Marco Lombardo che sono sempre con noi, e noi torniamo domani sempre alle 11. Buona giornata.